America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Philip Glass, il grande compositore contemporaneo americano. Oggi di nuovo vorrei aprire la nostra pagina culturale che cerchiamo di fare il venerdì, e ho pensato a lui perché è stato legato a degli artisti italiani sia nella sua formazione creativa musicale che proprio nella preparazione di alcune opere, per esempio una con Mario Merz. E vi parlo di questo perché è un momento, devo dire, proprio in questi giorni molto particolare per gli artisti italiani a New York. Abbiamo parlato qualche tempo fa della grande mostra al Guggenheim di Catalan, avevo fatto una chiacchierata con Michelangelo Pistoletto, che aveva anche lui aperto un suo exhibit qui a New York. Però devo dire che tra ieri e oggi si apre un weekend di intensa presenza italiana. Ecco, intanto perché si è aperta ieri sera alla Galleria di Larry Gagosian una mostra dedicata a Lucio Fontana, ma perché oggi si aprirà una mostra di Clemente, perché in città c'è una mostra da Goodman di Penone, e si è aperto un altro exhibit di Pierpaolo Calzolari dalle gallerie Marianne Boeschi e dalla galleria Pace. È stato uno sforzo collaborativo molto particolare. Quindi questo grande fermento che poi fa da cornice al periodo delle aste. Altra cosa, ieri sera si è inaugurata la Frieze Art Fair, che sarà aperta fra il 3 e il 7 maggio, una fiera d'arte contemporanea che è stata lanciata nel 2003 a Londra e resta uno degli appuntamenti artistici più importanti d'Europa. A questo punto è così, si sta facendo l'esperimento per trapiantarlo anche a New York. A New York dove? A Randall's Island, che è un'isola che è sotto il ponte, sotto il Triborough Bridge, oggi Robert Kennedy Bridge, dove c'è una gran quantità di stadi, ci sono dei campi da calcio, eccetera, e lì è stato organizzato questo allestimento. Ci saranno 180 gallerie in arrivo da 30 paesi diversi. Ecco, io con me ai microfoni di America 24 per chiacchierare un po' di tutto quello che sta capitando in questo weekend culturale newyorkese, Germano Celand. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dunque Celand, lei ha curato la mostra da Gagosian di Lucio Fontana e quindi è nel vortice, al centro, diciamo, di questo fine settimana denso di presenza culturale italiana a New York. Ci parli intanto di questa mostra. Com'è nata? Qual è l'idea? L'idea è molto semplice, fare una cosa che non era mai stata fatta su Lucio Fontana, che è quella di presentarlo al pubblico americano, ma anche mondiale, con non solo le opere tipo i quadri, ma con sei environments, che non sono mai stati messi insieme mai nella storia dell'arte. Quindi cercare di dare una lettura a 360 gradi del lavoro di Lucio Fontana, che non è solo i tagli e i buchi, ma anche tutti gli interventi dal 1949 al 1968 che lui ha fatto sullo spazio, con la luce, con le forme e con i tagli nelle pareti. Quindi un aspetto completamente inedito sia per il pubblico mondiale che quello americano, con la presentazione di un lavoro che è stato realizzato, ricostruito appositamente per questa esposizione, che non si è mai visto totalmente nel mondo, che è l'allestimento della Trinità con una specifica disposizione voluta da Fontana, di cui abbiamo ritrovato il disegno originale, e che quindi è una premiere completamente mondiale di questo tipo di lavoro. Ecco, può descriverci uno di questi ambienti, di modo che così, per cercare di visualizzarlo? Gli ambienti sono dei contenitori, delle stanze buie fondamentalmente all'inizio, dove Fontana o appendeva, come quello del 1949 che anticipa tutta la storia degli ambienti, delle forme fluorescenti che reagivano alla luce di Wuthering, e questa luce nera che fa apparire il bianco in maniera molto forte o il fluorescente molto forte, oppure sono pareti dove lui aveva tracciato con un pennello sempre con colore fluorescente dei buchi, cioè dei tondi che danno questo senso di apertura dello spazio, sempre al nero, al buio, verso l'esterno. L'ultimo lavoro invece di questi sei, che è del 1968, è come un labirinto bianco, totalmente quasi un limbo di luce accecante, dove si entra, si percorre quindi lentamente questo spazio che è articolato in maniera geometrica, e nella stanza centrale, nel cuore del labirinto, c'è un taglio dei suoi neri fatto nel muro. Celan, intanto racconto, diciamo chi è Celan, perché è uno dei più importanti storici dell'arte italiano, un curatore, un critico, ed è stato anche curatore fino a un paio d'anni fa al Guggenheim Museum, quindi è una presenza newyorkese, direi piuttosto assidua. Ecco, ci racconti, secondo lei, come mai c'è questa presenza così forte di questi artisti italiani? Direi è preponderante rispetto, per esempio, a gruppi di artisti tedeschi o francesi o inglesi, e condivide? Diciamo che il lavoro che è stato fatto anche dal Guggenheim, dove nel 95 ho fatto questa famosa mostra che si chiama Italian Metamorphosis, dove c'era design, architettura, moda, arte, cinema, eccetera, eccetera, inizia a pagare a livello informativo, e anche il riconoscimento che sta ricevendo un personaggio come Fontana, oppure Burri e gli altri artisti della sua generazione, incominciano a far sì che il pubblico americano e le istituzioni americane inizino a riconoscere l'importanza del contributo dato dall'Italia. Quindi questo tipo di volata che si sta realizzando finalmente è anche una conseguenza di un riconoscimento dei grandi maestri anni 60, Manzoni, Castellani, Bonalumi, e la generazione che viene dopo, che è quella che è stata definita dell'arte povera, Calzolari, Penone, Anselmo, Pistoletto e così via. Parliamo di New York, lei conosce la città, l'ha vissuta, una città pulsante di grande ispirazione artistica. Secondo lei resta oggi New York una fonte di ispirazione, ha la vitalità che aveva 20 o 30 anni fa, o secondo lei sta passando un momento di crisi? Ma la crisi è già da lungo tempo, nel senso che non è più un luogo di produzione creativa, ma un luogo di informazione, cioè il potere informativo è rimasto in mano a New York, sia da un punto di vista mediatico sia da un punto di vista delle gallerie, ma a livello di produzione nuova è ormai globale, nel senso che ormai si guarda a una situazione sferica del mondo in cui giapponesi, indiani, cinesi, l'Europa stessa convergono sempre su New York per un riconoscimento sia dal punto di vista delle arti che da un punto di vista delle gallerie, ma non sono i luoghi di creatività, sono ormai esterni a New York. New York è come diventato un imbuto che seleziona, filtra e riconosce tramite il potere dei musei, che sono pochissimi, e delle gallerie invece, che sono molto, molto numerose, quello che sta succedendo nel mondo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. A New York l'arte si unisce alla musica. Così l'inaugurazione di due mostre fotografiche dell'artista Ryan McNigley. Beh, c'è stato il concerto di Bradford Cox sul rooftop della Galleria di Soho che ospita la mostra. E dunque ascoltiamo di Bradford Cox Mona Lisa. How many fantasies were interrupted by a thousand galaxies that were floating by? The Mona Lisa's got you all. The Mona Lisa's got you all. The Mona Lisa's got you all. Mona Lisa, da New York è tutto. Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. America 24.